Bibbia Martini, primo libro dei Re 16. Il profeta Jehu predice la rovina di Baasa e della sua casa. Morto Baasa, succede a lui Elae, il quale è ucciso dall'empio Zambri, il quale avendo usurpato il regno, Israele elegge Antri, e questo re empio essendo salito sul trono, Zambri si abbruciò insieme con la casa reale. Morto Amri, succede a lui il figliuolo sommamente empio Achab, il quale sposa Jezabele, a tempo di lui è riedificata Gerico, ma non impunemente. Ma il Signore parlò a Jehu figliuolo di Anani contro Baasa, e disse, «Perché io ti ho innalzato dalla polvere, e ti ho fatto capo del popolo mio d'Israele, tu hai battute le vie di Geroboam, e hai indotto il popolo mio d'Israele a peccare, provocandomi a sdegno coi loro peccati. Ecco, ch'io mieterò la posterità di Baasa, e la posterità della sua famiglia, e della tua casa farò quello, che ho fatto della casa di Geroboam figliuolo di Nabat. Quelli della stirpe di Baasa, che morranno in città, saranno divorati dai cani, e che morranno nel suo territorio, li mangeranno gli uccelli dell'aria. Ma il rimanente delle azioni di Baasa, e tutto quello che egli fece, e le sue guerre, non sono elle non scritte nel diario dei re d'Israele. Baasa dunque si addormentò coi padri suoi, e fu sepolto in Tersa, e regnò in sua vece a suo figliuolo. Ma dopo che Jehu profeta figliuolo di Anani ebbe parlato per ordine del Signore contro Baasa, e contro la casa di lui, e in vituperazione di tutti i mali fatti da lui nel cospetto del Signore, irritandolo con le opere delle sue mani, onde poi accadesse a lui come alla casa di Geroboam, per questa ragione egli lo uccise, viene a dire, uccise Jehu profeta, figliuolo di Ananf. L'anno 26 di Assa re di Giuda. Eia figliuolo di Baasa prese il regno sopra Israele in Tersa per 2 anni. Ma si ribellò contro di lui Zambri suo servo, capitano della metà dei soldati a cavallo. Stava dunque Eia sbevazzando in Tersa, ed era ubriaco in casa di Arsa governatore di Tersa. Quando Zambri andò con gran furia, egli diede il colpo, e lo uccise l'anno 27 di Assa re di Giuda. Ed egli regnò in sua vece. E divenuto re, ed essendo assiso sul trono, sterminò tutta la casa di Baasa, e i parenti, e gli amici di lui senza lasciar vivo un cane. Così Zanibri distrusse tutta la progenie di Baasa, secondo la parola pronunziata dal Signore per bocca di Jehu profeta, a motivo di tutti i peccati di Baasa, e per i peccati di Eia suo figliuolo, quali peccarono. E fecer peccare Israele, provocando ad ira il Signore Dio di Israele con le loro vanità. Il resto poi delle azioni di Eia, e tutto quello che egli operò, non è egli scritto nel diario dei re di Israele? L'anno 27 di Assa re di Giuda, Zambri regnò per 7 giorni in Tersa, peroché l'esercito di Israele assediava Gebeton città dei Filistei. E avendo udito come Zambri si era ribellato, e aveva ucciso il re, tutto Israele elesse per suo re Amri capitano delle milizie di Israele, il quale trovavasi allora nel campo. Amri dunque si mosse con tutto Israele da Gebeton, e assediò Tersa. E veggendo Zambri, che la città sarebbe espugnata, entrò nella reggia, e si abbruciò con la casa reale, e morì, per ragione dei peccati che aveva commessi, e per i peccati che fece commettere ad Israele. Il resto poi delle azioni di Zambri, e la sua congiura, e la sua tirannide, non sono elle non descritte nel diario dei re di Israele. Allora si divise il popolo di Israele in 2 fazioni. La metà del popolo aderiva a Tebni figliuolo di Ginet, per farlo re, e l'altra metà era per Amri. Ma la vinse il popolo, che teneva per Amri, contro la gente, che seguiva Tebni figliuolo di Ginet, e Tebni morì. E regnò Amri. L'anno 31 di Assa re di Giuda, Amri prese il regno di Israele per 12 anni, in Tersa regnò anni 6. E comperò il monte di Samaria da Somer per 2 talenti d'argento, e alla città, che ivi fabbricò diede il nome di Samaria, dal nome di Somer padrone del monte. Ma Amri fece il male nel cospetto del Signore, e fu scellerato sopra tutti i suoi predecessori. e imitò in tutto Geroboam figliuolo di Nabat, anche nell'indurre, come quelli, Israele a peccare, provocando a sdegno il Signore Dio a Israele con le sue vanità. Il resto poi delle azioni di Amri, e le guerre fatte da lui, non sono elenco scritte nel diario dei re di Israele. E Amri si addormentò coi padri suoi, e fu sepolto in Samaria, e succedette a lui nel regno Acab suo figliuolo. Or Acab figliuolo di Amri ebbe il regno di Israele l'anno 38 di Asa re di Giuda, e Acab figliuolo di Amri regnò in Samaria sopra Israele per 22 anni. E Acab figliuolo di Amri fece il male nel cospetto del Signore sopra tutti i suoi predecessori. E non si contentò di imitare i peccati di Geroboam figliuolo di Nabat, ma di più prese per moglie Jezabel figliuola di Etbal re dei Sidoni, ed egli andò a servire a Baal, e ad adorarlo. Ed eresse un altare a Baal nel tempio di Baal, edificato da lui in Samaria, e piantò un boschetto, e andò avanti nel suo malfare, provocando a sdegno il Signore Dio di Israele più che non avean fatto tutti i re di Israele, che erano stati prima di lui. A tempo di lui el di Betel edificò Gerico, egli ne gettò i fondamenti sopra del suo primogenito Abiram, e ne piantò le porte sopra l'ultimo suo figliuolo Segub, giusta la parola pronunziata dal Signore per bocca di Giosuè figliuolo di Nini. Note, 16,2, ti ho innalzato dalla polvere. Ogni potestà è da Dio, e Baasa traditore e omicida non arrivò al trono, se non permettendolo colui, per cui regnano i regi. Ti ho fatto capo del papal mio. Dio non aveva rigettato Israele, benché infedele, dove si ritenevano tuttora molti segni dell'antica alleanza o la circoncisione, le scritture, IC 16,7, vale a dire uccise Giciu figliuolo di Anami. Queste parole mancano nell'ebreo, nei LXX, e in alcuni manoscritti latini. Con tutto ciò anche messa da parte questa dichiarazione della nostra Vulgata, nessuno potrà negare che il senso più naturale sia quello che per essa è espresso, e che tutto il contesto porta a far intendere che Baasa fece morire il profeta Jehu, che lo aveva ripreso da parte di Dio. Ma di più nessuno potrà negare che se ci tendiamo all'ebreo, questo può avere lo stesso senso, e che rifiutando questa, bisognerà dire che Geroboamo fu l'ucciso da Baasa, io che non essendo vero, dicono che si intende di Nadab figliuolo di Geroboamo, e che il padre è messo qui per il figliuolo ucciso da Baasa, capitolo 15:27-28. Egli è vero, che ne Paralipomeni, lib 2. Capitolo 19:2. Trovasi un profeta Gen figliuolo di Anani a tempo di Giosafat e ma non sarà egli più giusta di riconoscere piuttosto due figliuoli e due padri dello stesso nome, che intaccare l'autorità della Vulgata, e far anche forza all'ebreo per fargli dire quello che forse, o senza forse egli non dice? Abbiamo qui un profeta martire della giustizia. 16,13. Con le loro vanità. Colle false e immaginarie loro divinità. 16,24. Compro il monte di Samaria e ci. I re di Israele feceri la loro residenza a Sichem, India Tlersa, e finalmente a Samaria, credesi che vi fosse già a piede del monte un villaggio col nome di Samaria, di cui si fa menzione, capitolo 13:34. E che Amri stendendosi sul monte ne facesse quella illustre città, che diventò da indi in poi come capitale del regno delle 10 tribù. 16,31. Prese per moglie Jezabel figliuola d'Etbal, Eci. Questa donna non solo gentile, ma imperiosa e crudele, fece peggiore di quel che era il marito. Etbal è chiamato Tobalo da Greci, ed era re dei Sidonii, o piuttosto dei Tirii allora probabilmente padroni anche di Sidone. 16,34. Egli ne gettò e ci dio adempie letteralmente la maledizione pronunziata da Giosuè contro chiunque avesse tentato di rimettere in piedi quella città, Ios. 6:12. 7. E l'uomo empio e infedele, si mette a riedificare Gerico, con permissione certamente di Acab, il quale non dovea prendersi gran pensiero delle minacce di Dio. Ismael perde il figlio al primogenito, mentre gettava i fondamenti, perde gli altri figliuoli, mentre tirava innanzi le fabbriche della città, e finalmente perde l'ultimo, quando, terminata ogni cosa, attaccava le porte alle mura della città. Avvertimento grande per Achab, ma avvertimento, di cui non veggiamo, che traesse verun profitto.